Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci state ascoltando alle 6.45, buon fine serata, se invece ci ascoltate in replica alle 20.45. Subito la mail alla quale segnalare le vostre riflessioni o i vostri casi, un abuso al giorno @ Radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore oppure in un motore di ricerca, basta digitare blog e Roberto Galullo e subito lo trovate. Allora, oggi parliamo di quello che a mio giudizio è un abuso perpetrato nei confronti della pazienza del Comune di Bologna, della trasparenza, nei confronti del corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Ma non è un caso isolato ed è per questo che lo trattiamo, ma da questo prendiamo spunto. Allora, il 30 gennaio del 2009 la Corte dei Conti, segnatamente la sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, ha emanato una sentenza che ha condannato una società di gestione, di accertamento e riscossione di alcuni tributi locali ad una sanzione pari a 1,2 milioni di euro. Perché? Detto in soldoni, poi sentiremo la voce dell'esperto, del giudice contabile che di più ci dirà, detto in soldoni perché questa società di gestione, che ha una lunga storia di contenzioso con il Comune di Bologna e non solo, non aveva presentato al Comune di Bologna i conti giudiziali dal 2004-2007. In buona sostanza non gli aveva detto: guarda, io ho riscosso questo e quest'altro per la TOSAP, che sarebbe la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, oppure per quest'altra imposta. Insomma, si comportava in maniera poco trasparente. È arrivata la Corte dei Conti e gli ha comminato una bella sentenza pari a 1,2 milioni di euro. Insomma, non stiamo parlando di bazzecole, ma per capirne di più sull'importanza della sentenza e su quanto sia diffuso questo tipo di abuso, ho il piacere di avere collegato con noi Ignazio Del Castiglio, che è il procuratore regionale della Corte dei Conti Emilia Romagna. Buongiorno Del Castiglio. Buongiorno. E abbiamo collegata anche Paola Bottoni, che è l'assessore alle finanze, bilancio e persona del Comune di Bologna, che è già stata nostra gradita ospite. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Bottoni. Buongiorno. Allora, Del Castiglio, qual è l'importanza di questa sentenza? La sentenza è estremamente importante perché per la prima volta viene affermato il principio che il concessionario della riscossione di entrate locali deve rendere il conto giudiziale. Cos'è il conto giudiziale? È il conto che deve essere presentato, il conto della gestione presentato all'ente locale, che dopo il controllo e la parifica, cioè la verifica della rispondenza con le proprie scritture, lo invia alla Corte dei Conti perché si è esaminato in via giurisdizionale. È uno strumento importantissimo di controllo della sana gestione di tutti gli enti, dallo Stato agli enti locali, ed è uno strumento che mancava perché gli enti locali non hanno mai curato esattamente questo aspetto, cioè non hanno mai preteso tanti loro agenti contabili questi conti giudiziari. Ecco, allora sentiamo dal Comune di Bologna, dalla voce dell'assessore Bottoni, qual è stato per voi il danno di non aver avuto questi conti giudiziali per così tanti anni? Innanzitutto devo dire che il Comune di Bologna è nei fatti parte lesa nei confronti del concessionario per diverse ragioni, di cui questa è una. E come il signor procuratore probabilmente ha visto dalle cronache locali, anche per altre ragioni. Questa è la motivazione, certo, per cui voi siete parte lesa, chiaro. Siamo parte lesa, siamo parte lesa in questa vicenda e anche in altre. Ecco, ma come le chiedevo appunto, qual è stato il danno di non avere avuto questi bilanci, questi conti giudiziali per così tanti anni? Dunque, intanto il danno per la pubblica amministrazione locale è di non avere la certificazione congrua che la legislazione prevede. Allora, i concessionari e i sensi di legge, se sbaglio senz'altro il signor procuratore mi potrà, certo, correggere. Certo. Il concessionario è sottoposto alla verifica della Corte dei Conti, ai sensi di legge. In secondo luogo, dall'autunno dell'anno scorso, se non sbaglio, il conto giudiziale è reso obbligatorio per il concessionario. E in terzo luogo la sentenza quindi non fa che prendere atto di un obbligo. Da questo punto di vista il Comune di Bologna ha chiesto il conto giudiziale alla società. Adesso tra l'altro è un obbligo, quindi non c'è nessuna possibilità per il concessionario di non ottemperare. Eh sì, anche perché non conoscere le entrate patrimoniali o tributarie per un comune è un danno di non poco conto. Vorrei chiedere questo, Assessore Bottoni, ma se da tempo voi avevate, come dire, dei rapporti poco chiari con questa società di riscossione, come mai avete continuato ad avere con loro rapporti e soprattutto come mai, se non sbaglio, leggendo le cronache cittadine, voi non siete così convinti di abbandonare questa società di riscossione e accertamento? Beh, la ragione, guardi, è proprio in questi giorni l'amministrazione sta determinando in maniera sistematica le condizioni del rapporto, ovvero dell'interruzione del rapporto con la società. Il punto è che ci sono anche altri argomenti, anche cogenti, per esempio la società attualmente concessionaria ha costruito un debito nei confronti del Comune di Bologna nell'esercizio, nell'anno di riscossione 2008 di 4.800.000. La prima motivazione che ci muove è quella di garantire l'amministrazione della solvibilità di questo credito, della esigibilità di questo credito. Certo, quindi ricapitolandomi, corregga se sbaglio, voi vantate da questa società la bellezza di 4,2 milioni di euro. Sì, ecco, quindi, 2008. Ecco, quindi voglio dire, propriamente non bruscolini, no? Tanto per dirla. Affatto. Ma se posso aggiungere, anche il rapporto del concessionario, adesso qui mi riferisco ad episodi che risalgono tra gennaio e febbraio, quindi stiamo parlando della contemporaneità praticamente, ecco, un certo maldestro comportamento nei confronti dei contribuenti. Naturalmente per il Comune di Bologna anche questo noi lo consideriamo un danno. Assolutamente. L'insieme di queste questioni è proprio in queste ore oggetto di negoziazione con la società. Mi scuserà se non vado oltre. No, ma va benissimo così, perché assolutamente su questa negoziazione non anticipare, non bruciare. Assolutamente, ma poi non interesserebbero nemmeno il radioascoltatore. Ciò che invece vorrei chiedere a Ignazio Del Castillo è quanto è diffuso questo tipo di cattiva gestione di quelle che sono le entrate patrimoniali del comune, detto in maniera abbastanza volgare. Se un comune, una giunta, un consiglio non hanno la possibilità di conoscere bene le entrate, i conti, diciamo, di quello che è il piatto economico finanziario, come poi possono svolgere una corretta gestione dei confronti del cittadino? Aumentare le tasse, diminuirle, indirizzare i capitoli di spesa. E quindi le chiedo, Del Castillo, visto che abbiamo già detto che il Comune di Bologna è parte lesa e ci mancherebbe altro, secondo lei quanto è diffuso questo tipo di malgoverno, non della cosa pubblica, ma invece proprio, diciamo, di una delega che le società ricevono dalla pubblica amministrazione? Purtroppo è diffusissimo, perché la sanzione che è stata irrogata dalla sezione giurisdizionale di Bologna al concessionario della riscossione è la conseguenza del suo rifiuto di presentare il conto giudiziale. Perché è importante il conto giudiziale? È estremamente importante innanzitutto per l'ente. Se siamo in presenza di un agente contabile, i revisori dei conti, che normalmente verificano ogni 3 mesi la gestione degli altri agenti contabili interni che gestiscono gli spiccioli, dovrebbero a maggior ragione controllare la gestione di questi soggetti che riscuotono la maggior parte delle entrate degli enti. Casillo, vorrei chiedergli, sarebbe forse potuto impedire, se il concessionario fosse stato dal comune considerato agente contabile, quindi soggetto a quel particolare controllo dei revisori dei conti, forse non si sarebbe arrivati a tale. Ecco, vorrei chiedere questo, Del Castillo, ma a questo punto, visto che in Italia tutti la fanno franca, ma questa società di gestione, che non voglio nemmeno nominare perché non l'abbiamo ospite, ma pagherà questo 1,2 milioni di euro oppure passerà in cavalleria questo tipo di pesante sanzione, visto che è anche una società che ha problemi anche con altri enti locali e oltretutto ha un debito enorme per il solo 2008 18, come abbiamo sentito dalla voce dell'assessore Bottoni con il Comune di Bologna. Ma la sanzione dovrà essere pagata, certo, è una sentenza di primo grado, c'è la possibilità del ricorso in appello, l'ammontare della sanzione potrebbe anche essere ridotta, questo non lo so, comunque la pagherà perché la sentenza è titolo esecutivo e il Comune di Bologna dovrà curare la riscossione, come dire, di questa sanzione. Bene, io ringrazio il presidente della sezione, procuratore regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, Ignazio del Castiglio. Ringrazio Paola Bottoni, assessore alle finanze del Comune di Bologna. Grazie in regia Valeria Bernardi, in studio a Laura Fagina. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.